canzone precedente. Ammetto non si è capito niente. Stava nascendo un amore alla fermata del tram ed era lei che gli si avvicinò. Sono sceso in fretta fino al crocevia per raccontarvi com'è andata a finire. Ma il tram in curva spariva, non li ho visti salire. Chissà se si sposeranno o no. Allora se è così, no, niente. Come? No, Enzo, non ci siamo. Perché? Mi fai venire qui, mi fai perdere tempo. Io ho perso un'ora per venire fin qua. Sì. La prossima volta mi dici, ti faccio sentire una canzone che dura tot, in cui si dice una storia che inizia e finisce in un certo modo, io non vengo qui a perdere il mio tempo, lasciami non perdere, andare a so, prendere un caffè. Se ti sarai deciso alla fine a fare una terza canzone nella quale dici forse che cavolo fanno sti due dalla farmacia, oltretutto vanno in tram, cretini che vanno in tram, andate in macchina, vedete che fate molto prima, per la miseria, lasciami in pace, va.